L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica all'Europa, l'Europa quella della cultura da respirare, cultura che cresce, quella delle altre notizie, dell'altra attualità. L'intera settimana è seguita benissimo da Radio 24. Noi cerchiamo appunto di raccontarvi altri aspetti del nostro continente. Lo facciamo anche tramite Facebook, ci trovate nelle nostre pagine ufficiali Facebook. facebook.com/l'altra Europa, che aggiorniamo in diretta con tutti i link relativi agli argomenti trattati, ma ci trovate anche a radio24.it, che è il nostro sito. L'altra Europa @radio24.it, se invece ci volete scrivere. Si parte con un viaggio particolare, un viaggio che attraverso le acque ci accompagnerà da Londra a Istanbul. Why are we starting this trip? Everybody asks me why are you starting from London? Si definisce un viandante del nuovo mondo, è un documentarista, ma soprattutto è un navigatore. Man on the River è il nome del sito, manontheriver.com, è anche un po' il soprannome che lo accompagnerà in questa impresa, perché sì, è un'impresa remare dal Tamigi al Mare del Nord per portare consapevolezza del valore dell'acqua nel cuore dell'Europa. Diamo il benvenuto a Giacomo De Stefano. Ciao Giacomo. Ciao Federico, grazie, saluti a tutti, buon sabato. Allora Giacomo, una ripartenza, perché insomma questa tua, la possiamo chiamare impresa, anche se insomma la finalità va al di là, credo, del farsa, dell'impresa fisica. Ma sì, volendo sì, è un termine che a me un pochettino sta stretto, nel senso che io non sono un performer, questo viaggio è fatto per condividere, come ha dimostrato l'anno passato, diventerà sempre più, come era all'inizio, men al plurale, men on the river, cioè io sono uno dei tanti uomini del fiume che mi muovo per conoscere con lentezza, senza obiettivi di record o prestazioni particolari. Quindi impresa sì, un po' lo è, perché chiaramente non tutti i giorni tutti fanno questo, ma io vorrei farlo proprio per invitare, come ho fatto per il Po, le persone a fare anche tratti molto brevi. Allora, ricordiamo che tu eri già partito, poi una malattia ha bloccato questa tua prima navigazione, adesso ti sei rimesso in forma e quindi si riparte dal via. Ma ce la si farà, nel senso che da Londra si può arrivare a Istanbul solo attraverso vie fluviali? Sì, si può, e adesso proprio è una via totalmente percorribile, addirittura queste grandi chiatte di 200 metri che portano merci da Istanbul, dal Mare del Nord, ci può fare ancora, perché addirittura già i romani l'avevano iniziata, poi Carlo Magno aveva proprio fatto il canale 1200 anni fa e finito poi nel 1993, il canale che unisce il Reno al Danubio, che era il punto più difficile perché sale anche, arriva fino a 400 metri, e quindi oggi si può percorrere integralmente questa via, come le chiama Predrag Matvijević, le autostrade liquide, questi mari e questi fiumi che hanno portato a tutto il pianeta la ricchezza, vie di comunicazioni, merci, idee e anche purtroppo veleni. Certo, una via lunga per te, sarà lunga 5200 chilometri, 6 mesi su una barca a remi, giorno e notte, 1 milione di vogati, il Reno, il Danubio, appunto lo stretto della Manica anche ti farai? Eh sì, quello l'anno scorso è quello che mi ha inchiodato, perché c'è stata una primavera molto lunga e fredda in Gran Bretagna. Attraverserai 15 paesi, attraverserai veramente il cuore dell'Europa, partirai i primi di maggio, però già lunedì c'è anche qui uno strano modo per arrivare a Londra, perché lo farai con un mezzo particolare. Sì, si chiama Road Sharing, c'è questo sito roadsharing.it e anche .com, che è europeo, diciamo. Praticamente, anziché viaggiare, come spesso succede, da soli su una macchina, si cerca di mettersi d'accordo con persone che vanno per esempio dall'Italia a Londra, sì. Si mette questa ricerca e semplicemente si condivide il mezzo, quindi si inquina di meno, si ottimizza il percorso. Quindi arriverai là un mesetto prima, perché per i preparativi e per la sistemazione anche credo dell'imbarcazione, e poi via per questo viaggio che potrà essere seguito giorno per giorno attraverso il sito manontheriver.com, e tu incontrerai anche le persone, ti fermerai quindi a parlare con la gente, sarà un confronto quasi quotidiano? Assolutamente sì, la cosa più bella di questo viaggio è un po' quello che mi dicono certi personaggi che la sanno più lunga di me, sociologi, guru dei media, cioè quelli che loro chiamano anche il mondo 3.0, ovvero passare da questo trionfo del virtuale, della connettività che io utilizzo moltissimo, a tornare a fare il viaggio con i piedi, con le mani, a parlare con le persone sul territorio, ecco, riportare proprio l'uomo e le nostre vite, le nostre problematiche, le nostre gioie ad una dinamica di scambio, ad una dialettica vera, in tre dimensioni, ecco. Vedrai un'Europa molto particolare dal tuo privilegiato punto di vista. Noi ti seguiremo perché vorremmo raccontare quello che tu vedi, quello che tu raccogli, remata dopo remata. Grazie davvero, Giacomo. Allora, menontheriver.com è il sito, lo ripeto ancora, l'appuntamento i primi di maggio per la partenza ufficiale, giusto? Giusto, il primo maggio cercheremo di partire. È un viaggio molto flessibile perché sull'acqua tutto è un pochettino più... si muove, non è fermo, non è ormeggiato, non è come una macchina che la posteggi e sta ferma, la barca è sempre un po', quindi il clima, le persone, ciò che accade è un po' ogni giorno una sorpresa, però sul sito si può vedere, c'è un puntino sulle mappe, sulle Google Maps che indica dove noi siamo e ci si può anche aggregare a noi, potete salire a bordo, c'è una parte, un link nel quale c'è scritto vuoi salire a bordo, si può mandare un'email e se c'è posto, perché la barca è piccola, sono 5,60 m, volentieri condividiamo insieme come già successo. Perfetto, grazie davvero, buon viaggio Giacomo e a prestissimo. Ciao, grazie, buon sabato. Federico, ciao, ciao. Un abbraccio a tutti. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando e poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Istanbul International Film Festival. Nuove produzioni, ma anche indimenticabili classici. Una selezione di capolavori dei più famosi registi del mondo, ma anche un tuffo nella produzione turca degli ultimi anni, per molti aspetti sempre più vicina all'Occidente. Questo e molto altro si può vedere al Film Festival Internazionale di Istanbul, che si svolge da oggi al 17 aprile nella grande città turca. 235 film che raccontano di diritti umani, per i quali è stata organizzata una sezione a tema con un concorso proprio, ma anche produzioni dedicate ai bambini e una selezione di film fuori dagli schemi provenienti da tutto il mondo. C'è anche una sezione in memoriam, dove si celebrano i grandi artisti che ci hanno lasciato quest'anno. Tra gli altri c'è il nostro Mario Monicelli. Insieme al festival ci sono anche tante altre iniziative di mostre e concerti. Trovate tutto su film.iksv.org. L'altra Europa. 293 giorni, è un record assoluto, è il record del Belgio senza governo, record che stiamo seguendo ormai da qualche mese perché tantissime curiosità, ricordate forse la rivoluzione delle patate fritte, il giornalista televisivo che non si è più rasato la barba, insomma Facebook è diventato uno strumento di protesta, ma continuano a passare i giorni, Valloni e Fiamminghi sono sempre in un vicolo cieco, anche se insomma il paese pare tenere, si stanno quasi abituando a questa situazione, però altre polemiche legate a questa canzone che stiamo ascoltando in sottofondo. Lui si chiama Jonathan Vanderbroek, in arte Milov. Cos'è successo e perché nuove polemiche legate al testo di una canzone? Ce lo racconta quello che per noi è la voce ufficiale dal Belgio, ormai è un amico dell'altra Europa, è un giornalista della TV belga. Diamo il benvenuto a Pierre Marlet. Ciao Pierre. Ciao. 293. Ma non sono la voce ufficiale. La voce ufficiale non lo sono. Sei la nostra voce ufficiale per l'altra Europa. Ma 293 giorni, ormai tenete le tacche, credo, nelle pareti a casa, cioè disegnate giorno per giorno il passaggio di questo tempo. Ma ci si sta abituando, Pierre? Sì, perché la gente finalmente si dice che con un governo intermediario le cose vanno meglio. Abbiamo fatto un bilancio, bilancio dello Stato, abbiamo deciso di andare a bombardare la Libia, cioè decidiamo molte cose con un governo intermediario e aspettiamo le negoziazioni tra Fiamminghi e Valloni che però non arrivano a un accordo, ma insomma le cose funzionano. Ho capito. E intanto è arrivata questa canzone che stiamo ascoltando. Di cosa parla e perché ha fatto discutere? Allora, è un cantante fiamenco che si chiama Jonathan Vandenbroek, è Milo, il nome dell'artista, e questa canzone si chiama Norte e Sud e si chiama Il Regno, cioè dice nella canzone in inglese che questo regno che trembla, cioè il Belgio, fa che lui non sa più da dove viene, e allora ha detto che questo è il regno suo, il Belgio, è scritto in su DNA. Dunque è un canzone unitaria, possiamo dirle. E allora ha fatto un'intervista in un periodico, sì? Dicendo che il leader nazionalista flamenco, Bart De Wever, non è un buon uomo politico, perché non è d'accordo con niente, e allora non ha fatto niente. E la gente del partito di De Wever ha detto su Twitter e tutto questo che questa polemica, questa critica non tiene senso, non ha senso. È come dire che Beethoven è un coglione, cioè una polemica molto dura tra i politici del partito nazionalista e questo cantante. E io penso che dietro questa polemica c'è il tema della libertà per un artista di criticare i politici. Certo, e comunque insomma è una protesta molto sentita dai giovani, no? Insomma, la canzone, la musica, Twitter, Facebook, i giovani continuano a essere protagonisti e desiderosi di una soluzione. Sì, questo è vero, i giovani hanno fatto altre manifestazioni questa settimana, sempre con le patate fritte, che adesso tutti conoscono in Europa. Per dire sì che bisogniamo di fare un accordo tra i fiamminghi e i valoni e che le cose continuano come dire, che non c'è un accordo perché il partito nazionalista fiammingo non vuole realmente un accordo, vuole mostrare che il Belgio non funziona più, e adesso nel nord del paese, in Fiandria, c'è una polemica tra i nazionalisti e gli altri. Il problema è che i sondaggi mostrano che Bart De Wever ha sempre più partigiani. Sì. Adesso c'è 30-35% che dicono che Bart De Wever è la figura che la Flandra bisogna. E questo è il problema, perché la gente che vuole negoziare, fare le negoziazioni, devono fare compromessi, perché i compromessi fa parte del DNA del Belgio. Esatto, insomma, questo DNA che ritorna, questa voglia di compromesso, questa voglia di accordo nel cuore d'Europa. Pier, come sempre, grazie davvero per averci fotografato la situazione, come sempre ci hai tenuto aggiornati, e ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate, sperando di poter finalmente dire basta a questi tanti giorni di vuoto governativo. Ciao Pier, buon sabato. Forse quest'estate possiamo dire che finalmente abbiamo un accordo. E noi aspettiamo. Grazie Pier, ciao. Ciao. Intanto abbiamo pubblicato anche sulle nostre pagine in Facebook il video della canzone di Maulov, così potete vederlo ed ascoltarlo. facebook.com/l'altra Europa. Europostit. Robo Belgio. Una mostra spettacolare di robot. È quello che si tiene al PAS, il Parco delle Avventure Scientifiche di Mons in Belgio. Il parco è di per sé un museo della scienza e della tecnica fuori dagli schemi, con tante attività interattive e laboratori per i ragazzi e le scolaresche. Dal 9 al 25 aprile l'attenzione si concentra sui robot, che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Come funzionano? Per che cosa in futuro potranno essere utilizzati? Scopritelo con animazioni 4D e filmati, oppure provate a comandarne direttamente uno. E i robot? Possono farci anche divertire? Sembrerebbe di sì. Due robot, inizialmente pensati per il settore farmaceutico, si esibiranno in danze, nello spettacolo Electrobot.

un po' tutti in questi paesi abbiamo delle, una minoranza egiziana che ha perso ormai la lingua e la provenienza, come ricordo, etnico, però sono importantissimi per noi, perché sono quelli che mandano avanti la musica delle Chashia, nel senso loro nascono col violino in mano o col clarinetto nella stramaggioranza dei casi. E il kabba, ad esempio, è un genere che parte lento, lamentoso, doloroso, e ad un certo punto poi esplode in una serie di ritmi appunto ballabili, volendo. E poi Mariola, scusami ancora per la pronuncia, c'è la Kajija? Ok, perfetto. Che è un altro genere molto particolare. Sì, ecco, la chalga è esattamente un genere che proviene direttamente dalle città turche, quindi dai ritmi di Istanbul. Sono i musicologi riconoscono proprio dei ritmi particolari che sono fedeli appunto alla musica che veniva prodotta a Istanbul o nelle altre, insomma, città di spicco della Turchia, e che sono state importate, diciamo, nei Balcani da chi viaggiava appunto, dall'elite culturale e politica che la riproduceva esattamente tale. Infatti è un tipo di musica che è probabilmente il più globalizzato nell'area balcanica. Infatti ad esempio una regista bulgara, Adela Pejeva, ci ha dedicato un documentario intitolato Di chi è questa canzone, perché appunto vi sono delle canzoni o perlomeno delle melodie che sono identiche, simili in tutta l'area, e tutti rivendicano appunto la loro autenticità, dicendo che appunto che è propria, invece insomma è un ottimo messaggio di unione. Il ritmo del bazar, il bellissimo articolo, ma ci saranno anche altri dossier di Mariola Ruccai, e come sempre balcanicaucaso.org è il sito per poterlo seguire, per poterlo leggere. Ciao Mariola, ti lasciamo alla musica di Sarajevo e buon ballo, perché lo sappiamo che alla fine ballerai anche tu, vero? Grazie. Ciao, buon sabato. Ciao, buon sabato. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, l'altra Europa. Anche noi facciamo parte di Euronet. Euronet.eu è il sito ufficiale di questo network di radio europee. Tanti punti di vista diversi in tante lingue diverse. Ogni settimana affrontiamo anche un tema comune. Il tema scelto per questa puntata ci accompagnerà fino al 12 aprile, quando ci sarà un'iniziativa importante a Bruxelles, Euronet Connect. Si parla di disoccupazione giovanile, con numeri allarmanti dei 23 milioni dei cittadini dell'Unione Europea disoccupati. Ben il 20% sono rappresentati dai giovani. Si parla ormai di generazione persa, con un quinto delle persone sotto i 30 anni che sta ancora cercando il suo primo impiego. Quindi il focus di Euronet nelle prossime settimane sarà proprio su questo argomento, e anche noi offriremo i nostri punti di vista, i nostri approcci. Proprio per entrare in argomento abbiamo invitato una persona che conosce bene il problema della occupazione / disoccupazione giovanile in Italia, ma sta allargando le sue ricerche anche in Europa. È direttore del sito La Repubblica degli Stegisti ed autrice dell'omonimo libro per La Terza. Diamo il benvenuto a Eleonora Voltolina. Ciao Eleonora, buon sabato. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Federico e agli ascoltatori di Radio 24. Si parla di occupazione in Europa, si parla di disoccupazione e noi parliamo di stage. Lo stage sta lì in mezzo, è occupazione o è disoccupazione? Questa è una domanda da $1 milione. Lo stage è il momento della transizione dalla formazione al lavoro. Dipende da quando lo si fa, poi le finalità che ha. Se lo si fa quando si è molto giovani e si sta ancora facendo il proprio percorso di studi, di solito è puramente formativo. Se invece lo si fa quando si è un po' più vecchietti, come succede spesso in Italia, e lo si fa per trovare lavoro, allora la finalità cambia. Sicuramente io non considererei occupati le persone che fanno uno stage, semplicemente per il fatto che non percepiscono uno stipendio e quindi non hanno una vera e propria posizione lavorativa. Ma su questo bisogna dire che c'è grandissima confusione anche da parte degli enti e degli organi che dovrebbero invece decidere come classificare, in quale casella mettere gli stagisti, non solo in Italia, non parlo solo delle rilevazioni statistiche italiane, ma proprio di tutta Europa. C'è proprio un vuoto che l'ILO non è ancora riuscito a riempire su come considerare questi stagisti. È possibile fare una fotografia a livello europeo? Lo stagista appunto viene visto come nelle varie nazioni? Sono anche culture diverse, sono anche approcci diversi, immagino. Certamente, noi in Italia abbiamo questo approccio allo stage come una sorta di passaggio obbligato ormai. Sì. Lo stage è stato introdotto, normato 13 anni fa e è cresciuto di anno in anno. Oggi sono circa 500.000 le persone che fanno stage ogni anno in Italia. Rispetto all'Europa, una situazione simile a quella italiana la ritroviamo in Germania. Sì. Dove infatti si sono inventati, come noi abbiamo appunto la Repubblica degli stagisti, loro hanno questa definizione Generation Practicum, che è proprio la generazione stage, perché loro chiamano practicum lo stage. Sì. Mm-hmm. E lì c'è una situazione simile, nel senso che la normativa non pone limiti rispetto all'età degli stagisti come in Italia, non pone limiti al numero degli stage che ogni persona può fare come in Italia, non pone un vincolo di rimborso spese minimo come in Italia, quindi possono essere e ci sono tantissimi migliaia e migliaia di stage gratuiti in cui la persona non percepisce nemmeno il rimborso spese per il cibo o per il trasporto come in Italia, mentre in altri paesi, poi lo vediamo, c'è l'obbligo da parte di chi ospita uno stagista di dare qualche soldo. E quindi la situazione tedesca è simile a quella italiana, con centinaia di migliaia di ragazzi e non più ragazzi, quindi anche uomini e donne, che fanno uno stage dopo l'altro senza riuscire a trovare uno sbocco lavorativo. E invece c'è qualche oasi positiva? Allora, man mano che si sale verso il nord, certamente la situazione migliora, perché c'è una diversa mentalità. Io dico sempre che la situazione italiana, peculiare italiana, è anche una situazione data dall'accettazione che la società ha di determinate realtà. Il fatto che una persona che si è laureata, che ha studiato 4-5 anni, a questa persona durante un colloquio venga proposto uno stage non pagato, in Italia la cosa viene accettata e la famiglia di questa persona dice: accetta pure lo stage gratuito, continuiamo a mantenerti noi. Una famiglia danese non concepisce l'idea che il figlio, dopo aver tanto studiato, vada a lavorare gratuitamente attraverso uno stage, quindi lì il problema nemmeno si pone. Quindi abbiamo i paesi scandinavi dove lo stage viene fatto dai 17enni, dai 18enni, non esistono gli stagisti ventenni, tantomeno trentenni o quarantenni, cosa che invece in Italia purtroppo esiste. È quasi consuetudine. Poi ci sono dei paesi che sono simili a noi come diritto del lavoro, penso per esempio alla Francia, dove anche dei movimenti di piazza, loro hanno Génération Précaire, che è un collettivo che si batte per i diritti degli stagisti, sono riusciti a sensibilizzare il mondo politico imprenditoriale, sono riusciti a far approvare una legge ormai 3-4 anni fa che impone per tutti gli stage che durano più di 2 mesi un rimborso spese di almeno 400 euro al mese per tutti gli stagisti. Ecco, Eleonora, è là dove il rimborso spese è obbligatorio lo stage comunque funziona, cioè ci sono anche ricadute positive, non solo per il portafoglio di queste persone, giustamente, ma anche proprio come acquisizione di una nuova cultura rispetto a questo periodo di formazione, di prova, diciamo. La la posizione della Repubblica degli Stagisti è molto chiara e si è consolidata in questi 3 anni che noi esistiamo. Quando c'è un rimborso spese, nella stragrande maggioranza dei casi c'è una responsabilità maggiore dell'impresa nel trattare lo stagista. Nel momento in cui l'impresa si mette la mano nel portafoglio e deve tirare fuori dei soldi, investe di più anche nella formazione dello stagista, è un circolo virtuoso. Se invece all'impresa lo stagista non costa una lira, detto in parole povere, molto spesso una disattenzione nei confronti dello stagista e un utilizzo degli stagisti uno dopo l'altro come dei Kleenex, mentre l'investimento economico si traduce poi molto spesso in una qualità formativa migliore e anche in una più alta possibilità di essere assunti al termine dello stage, perché nel momento in cui un'impresa ha investito anche economicamente in una nuova risorsa formandola per 3 o 6 mesi o addirittura un anno, poi è più difficile che se la faccia scappare. Questi che sto dicendo sono dati che sono stati anche confermati da un sondaggio che la Repubblica degli Stagisti ha svolto in collaborazione con l'ISFOL, che è l'ente pubblico che si occupa di formazione, certo, dei lavoratori, e che ha denotato proprio il fatto che quando c'era un rimborso spese, le probabilità poi che la qualità dello stage fosse più alta e che lo sbocco lavorativo fosse più probabile erano più alte. Eleonora, grazie davvero, insomma, per averci dato questa visione anche oltre i nostri confini. Ricordiamo il sito La Repubblica degli Stagisti per avere tutte le informazioni e seguire le attività di Eleonora e non solo. Grazie e buon sabato. Grazie a voi. Europost-it. Per chi sceglie di andare. Avete deciso di iscrivervi a un programma di istruzione o di formazione fuori dall'Italia? Oppure cercate un lavoro o un'esperienza all'estero? In tutti questi casi è importante che le vostre capacità e competenze siano ben comprese e riconosciute a livello internazionale. Per questo esiste il programma europeo Europass, che attraverso un sito vi può aiutare a scrivere un curriculum in formato europeo, ma anche a garantire la vostra conoscenza delle lingue e a produrre tutti i documenti necessari perché vengano riconosciuti i vostri diplomi e le vostre certificazioni. E se avete bisogno di un aiuto più da vicino, sul sito trovate anche un elenco di centri nazionali Europass dove potete recuperare altre informazioni più specifiche per ogni paese. Trovate tutto su europass.cedefop.europa.eu. Questi sono i nostri Europost-it, vi segnaliamo tutto ciò che succede in Europa. Anche voi potete mandarci altre dritte, altre indicazioni, altri eventi. L'altra Europa @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Abbiamo parlato tante volte di Erasmus all'interno del nostro programma e lo facciamo anche oggi, ma con una chiave particolare. La chiave è quella di un documentario che si intitola Ci provo, un documentario che racconta l'esperienza di Luigi Fantinelli, un 22enne down che frequenta l'Università di Bologna e che è stato il primo studente con un deficit intellettuale a partecipare al programma europeo Erasmus, ad ottenere quindi questa borsa di studio. Lui l'ha fatto in Spagna e tutta questa storia è stata ripresa, montata e raccontata da una documentarista argentina che è qua con noi oggi in collegamento all'altra Europa. Diamo il benvenuto a Susana Pilgrim. Ciao Susana. Ciao, ciao, salve. Hai raccontato una storia bellissima perché si parla di Erasmus, si parla di contaminazione, di incontro culturale, lo si fa con Luigi, un ragazzo con la sindrome di Down, quindi è davvero un punto di vista particolare. Sì, sì, sì, sì, è una storia molto bella e questo mi è piaciuto, di raccontare una storia bella, insomma, di raccontare la storia di qualcuno che ci è riuscito, che qualcuno a cui gli sono stati riconosciuti i diritti, qualcuno a cui, insomma, con sforzo, con l'aiuto e la sinergia di tante persone che le stanno intorno ci è riuscito. Ma quindi hai fatto l'Erasmus anche tu, di fatto? Io l'ho fatto tanti anni fa, io come 2 milioni di europei che hanno fatto l'Erasmus in 25 anni, l'ho fatto anch'io tanti anni fa. Io sono stata accompagnata a Luigi nel suo Erasmus e sono stata 3 volte in Spagna per girare momenti diversi della sua esperienza. Lui è stato lì per mezzo anno, insomma, da gennaio a luglio del 2010. Quienes han ayudado y contribuido a dar el cambio no ha sido la medicina. Hemos sido los educadores. Lo que estamos haciendo con Luigi es dejar que ejerza ese derecho. No estamos haciendo otra cosa. Que nadie puede ni debe tomar decisiones por ello. Solo por llegar a la universidad yo pienso que ya es un suceso no de Luigi en exclusivo, sino de la sociedad en general. Pienso que la experiencia de Erasmus es, en una palabra, maravillosa. Io voglio soltanto che lui stesse con me tutta la vita. Che non mi smetterò mai di amarla. E questo è un piccolo estratto di Ci provo, il documentario di Susanna Pilgrim che racconta la storia di Luigi Fantinelli, questa sua avventura, questo suo Erasmus, questa storia tra Italia e Spagna. Il sito di Susanna è honestative.wordpress.com, l'abbiamo già pubblicata anche nella nostra pagina in Facebook, lì potete vedere il trailer del documentario che è stato selezionato in tantissimi festival. Susanna, sei appena tornata, credo, da Città del Capo, dal Sudafrica, vero? Sì, sono andata lì anche con Luigi. Ah, fantastico, quindi insomma... Sì, è stato colpito proprio. E, insomma, si può raccontare tanto di questo documentario, la cosa più bella è ovviamente vederlo, però visto anche il nostro programma, mi piaceva cogliere appunto che Europa hai visto, la Spagna nei confronti di Luigi, per esempio, hai visto comportamenti diversi da quelli che hai incontrato invece in Italia nei confronti di Luigi, per esempio. Sì, io credo Luigi poteva andare a fare l'Erasmus a tutti quei paesi che avevano convenzione con l'Università di Bologna, che sono tantissimi tra i paesi europei. La particolarità che offriva la Spagna era che oltre a un supporto di studio universitario, una disponibilità immensa dalla professoressa Nuria Ilian e altri professori dell'università, era che lì Luigi aveva l'occasione di essere accolto in un progetto della fondazione Fondown, sì. Nel quale vivono in appartamenti normali distribuiti in diverse città ragazzi con disabilità e ragazzi studenti universitari, e fanno un'esperienza di convivenza, e questo è stato anche molto importante per Luigi, un'esperienza che sta tentando di riprodurre anche qui in Italia. E il professor Nicola Cuomo è un po' il creatore di questo tipo di integrazione, di questi progetti Amico che si chiama, e di cui la Spagna prende il modello, e adesso sta vivendo un'esperienza simile a Bologna, condividendo un appartamento con un gruppo di studenti, facendo una vita normale. Ha imparato un po' lo spagnolo? Oh, tanto, tantissimo, guarda, cioè lui veramente ha un talento per questo, anche adesso in Sudafrica parlava l'inglese, poi magari qualcuno parlava qualche parola di spagnolo che è più frequente che l'italiano, e lui diceva molto tranquillamente, ah, puoi parlare anche spagnolo, lui parla molto bene lo spagnolo, veramente ha un talento per le lingue. E ha imparato molto, ha fatto degli esami in spagnolo scritti e orali, insomma, anche bene. Insomma, noi abbiamo parlato tante volte dell'Erasmus come esperienza formativa fondamentale per chi frequenta l'università, e anche Luigi, appunto, credo che a questo punto la sindrome di Down sia quasi un fatto secondario, può testimoniare questa fantastica esperienza. Grazie davvero. Ma questo è importante, che l'Erasmus è un intercambio culturale, non puramente accademico, perciò questo scambio arricchisce a livello culturale le persone che hanno la possibilità di farlo, e così è stato anche per Luigi, al di là degli esami del percorso accademico che fa. È importante conoscere altre persone, altri popoli, imparare altre culture, e questo Luigi ha usufruito di questo al massimo, veramente. Grazie davvero, Ci provo, ricordo ancora il titolo del documentario di Susanna Pilgrim. Ciao Susanna, buon lavoro e in bocca al lupo per il corto, per il documentario, perché possa davvero girare in tutti i festival. Ciao, buon sabato. Grazie per il vostro interesse, grazie a tutti, ciao. Europost-it. Un sito per tutti. Un sito con tante informazioni per conoscere i diritti delle persone diversamente abili in ogni paese europeo, ma anche per sapere cosa fare quando si viaggia, quali servizi devono essere garantiti e quali leggi valgono in giro per il mondo. È il sito della Rappresentanza Europea delle Persone con Disabilità. Un portale in tante lingue, pensato per far crescere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti delle persone con abilità diverse, in modo da poter far sentire la propria voce nelle decisioni europee, con lo scopo di creare e mantenere una rappresentanza e per far sì che nessuna decisione sulle persone disabili venga presa senza il loro parere. Il sito ha anche una versione nel linguaggio dei segni. Prendete appunti, l'indirizzo web è edf-feph.org. E con questi ritmi rimaniamo in Spagna, andiamo a Siviglia ma passando per Voghera. Questa infatti è la storia di Irene Lasentio, 26enne con un sogno. Il suo sogno era quello di diventare ballerina di flamenco e trasformare questa passione in una professione, ed Irene ce l'ha fatta. Ciao Irene, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie Federico, è un piacere. Quindi tu di professione fai questo? Cioè balli flamenco? Sì, diciamo che più o meno. Ci sono dei periodi in cui riesco a fare solo quello, periodi in cui siamo più in crisi e devo fare anche altre cosette varie, però principalmente sì, mi dedico a ballare, a insegnare, lavorare col flamenco, insomma. Ok, Irene, ma è accettato il fatto che una straniera possa insegnare flamenco, possa diventare una professionista del flamenco? Guarda, all'inizio ovvio che suscita un po' di diffidenza all'interno del mondo gitano, sempre un po' chiuso, così restio ad aprirsi, ma quando poi vedono che comunque sono loro che ti hanno insegnato, ti hanno trasmesso il loro sapere, la loro arte, e tu dimostri, riesci a dimostrare costantemente che lo fai bene, seguendo insomma certi canoni, rispettando quella che è la tradizione, non hanno nessun problema, insomma. L'importante, ecco, è aver sempre tantissimo rispetto nei confronti di questa cultura e questa arte che alla fine non ci appartiene fino in fondo, nel senso che non siamo nati con questa cultura in casa, ecco. È qualcosa da assimilare dopo, una volta che ci si appassiona. Ecco, ma e com'è entrato il flamenco nella tua vita? Allora, complicato. No, avevo tipo 15-16 anni e ho visto uno spettacolo alla fiera della mia città di Voghera, dove non era neanche flamenco vero, erano balli popolari spagnoli, però sono rimasta pietrificata e dicevo: io voglio ballare così, assolutamente. E poi piano piano sono venuti gli anni in cui ho investigato un po', ho indagato su che cos'era questo flamenco, e una volta che poi ho scoperto che cos'era veramente, che era quello che volevo fare, mi sono poi trasferita qua a Siviglia. Ecco, quindi ora vivi lì, però cosa significa respirare la cultura del flamenco? Non è solo una danza, non è solo un ballo, è anche altro? È altro, assolutamente. Per capirlo fino in fondo bisogna venire qua e viverlo quotidianamente con... Adesso io sono un po' un caso particolare, nel senso che mi sono inserita nel contesto gitano, che è ancora più peculiare all'interno del flamenco in generale, però bisogna viverlo nel quotidiano, con le feste, con il modo di esprimersi, il modo di essere della gente andalusa, che è molto diverso rispetto magari al mio, che potevo avere, certo, quando vivevo lì in provincia di Pavia, no? È proprio tutto un modo di vivere, una filosofia di vita, fondamentalmente. E quindi... E comunque, insomma, già trasmetti passione solo con la voce, quindi immagino anche col corpo e con la tua arte. So che verrai a maggio a Milano, ti aspettiamo qua in studio, magari facciamo anche un corso di flamenco e di cultura flamenca in radio, che può essere una novità. E tutti i link relativi alla tua pagina Facebook, alla tua pagina MySpace, l'abbiamo già pubblicati nel nostro facebook.com/l'altra Europa. Ciao Irene, grazie davvero e buon ballo. Grazie mille, grazie, a presto. E a ritmo di flamenco chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Claudia Carusi, che con me l'ha scritta insieme a Margherita Ina, la parte tecnica Roberto Scaltritti. E vi aspettiamo in Facebook e vi aspettiamo come sempre sabato prossimo qua alle 10. Ciao da Federico Taddia.